Shh, lascia stare. Non fa niente. Non è successo niente. Cresciamo ripetendo queste parole come un mantra, fino a crederci. E quando ci facciamo l'abitudine, ci ripetiamo ossessivamente: no, non se ne parla. Ed è vero, non se ne parla abbastanza e abbastanza bene degli abusi sessuali nei confronti dei minori. Così, questo podcast si origina da quell'espressione che abita le nostre teste per anni, fino a quando assumiamo una consapevolezza sulla nostra condizione. In Italia siamo assai reticenti a parlare di abusi sull'infanzia, perché quando non ci manca il fiato, ci mancano le parole. Questa serie vuole aprire uno spazio di confronto che decostruisce l'immaginario fatto di soli stigmi, per riabilitare i vissuti delle persone abusate in età infantile, a cominciare dal lessico e dalle forme di narrazione. Su questo sentiero incontreremo le testimonianze di chi compie una marcia simile alla nostra, da più tempo, per prendere in consegna il testimone e passarlo laddove ancora non se ne parla. Noi siamo Francesca Svanera e Gabriele Rosato e questo è un podcast di Meti. Benvenute e benvenuti a Non se ne parla, il podcast che alza il volume delle storie silenziate. Noi siamo Gabriele Rosato e Francesca Svanera e in questo episodio affronteremo un tema spesso trascurato, ma di fondamentale importanza, anche per la tutela dei minori, il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, con un focus sulle ripercussioni sui minori. Parleremo del sistema di sfruttamento nel settore agricolo e del suo impatto sulle persone più vulnerabili. Proprio così, Francesca. E per questo oggi ospitiamo ai nostri microfoni Marco Omizzono, che è un sociologo e ricercatore per Euispes, inoltre è docente di sociopolitologia delle migrazioni all'Università La Sapienza di Roma. Marco è tra le voci più influenti sul tema delle migrazioni, della tratta internazionale e appunto di caporalato. È autore di numerosi saggi sullo sfruttamento in agricoltura ai danni di lavoratori e lavoratrici e quindi Marco, benvenuto tra noi e grazie per essere qui. Grazie mille a voi, è un piacere stare con voi e parlare di questo tema. E proprio perché per noi parlare significa intanto familiarizzare con il lessico, ti chiediamo se c'è una parola che dal tuo punto di vista non viene pronunciata abbastanza o abbastanza correttamente e che vuoi introdurre nel nostro vocabolario, una parola di cui senti l'urgenza. Beh, in realtà ce ne sono tante, perché anche il nostro linguaggio, il nostro vocabolario è selezionato sulla base a volte dei fenomeni gravi di emarginazione e di violenza, e a volte il non individuare una parola adeguata serve anche a nascondere questo genere di fenomeni. Poi nella mia esperienza, se devo individuare una parola che è nel suo concetto sempre ricorrente, ma mai adeguatamente pronunciata, è quella di violenza. Lo sfruttamento nelle forme che io ho indagato, che ho vissuto, che ho denunciato, coincide con forme diverse di violenza. Cosa che ci, e lo dico in premessa di questa nostra comune riflessione, fa superare un approccio solo sindacale del fenomeno. Lo sfruttato è anche una persona che subisce una violenza economica, una violenza fisica, una violenza del linguaggio, una violenza padronale, una violenza a volte anche in alcuni specifici casi di carattere sessuale, attraverso delle modalità, ed è la mia diretta esperienza, che sono sempre organizzate, pensate. Quindi è il tranello dentro il quale vengono fatte precipitare persone e spogliate della loro vita. E quindi violenza è sicuramente un termine fondamentale. Sì, credo che poi all'interno di questa parola racchiuda un insieme di sfaccettature completamente diverse che fanno parte di un unicum che però non viene mai guardato a pieno nelle piccole sezioni, ma viene nascosto spessissimo, purtroppo. E io ho avuto la fortuna di leggere un tuo libro e ti ho conosciuto tramite una inchiesta che hai fatto per Safe for the Children e ti ringrazio tantissimo per il lavoro che fai, perché lo fai in un modo molto rispettoso anche verso chi ha subito, e questo non è una cosa che fanno tutti, quindi grazie della cura che ci metti. E io non sapevo niente fin quando non ho incontrato questo report di che cosa fosse il caporal alto, cioè veramente non sapevo che c'era in Italia, che era così diffuso. Ti va di raccontare a chi ci sta ascoltando che cos'è e dove si trova? Perché tante volte lo vediamo come una cosa estera, non in Italia. Allora, il caporalato intanto è un fenomeno criminale, è storicamente presente in Italia. L'Italia ha vissuto fenomeni di caporalato almeno 200 anni. Poi per un certo periodo, grazie all'industrializzazione, si è pensato che il caporalato, soprattutto in agricoltura, fosse terminato. Perché consisteva soprattutto in un'attività di selezione e reclutamento da parte appunto del caporale, persona fisica, di lavoratori e lavoratrici di diversa età, per portarli a lavorare dentro alcune imprese, soprattutto agricoli, alle dipendenze dirette ed esclusive di un imprenditore che si erge a padrone e che quindi attraverso questa attività di selezione e reclutamento arriva a stabilire le condizioni di sicurezza, di lavoro, fino a trasformare il soggetto lavoratore in un oggetto. In Italia lo abbiamo conosciuto anche sulla base di inchieste, film, documentari, con riferimento ad alcune aree del nostro paese, soprattutto il meridione, ma poi in realtà anche penso alle Mondine nel nord Italia, e lo si è purtroppo considerato un fenomeno superato perché attinente all'Italia agricola di una volta, e questo ha impedito di guardarne l'evoluzione. Il caporalato in realtà c'è ancora oggi, si occupa di questo tema, lo definisce sistemico, organizzato, diffuso, ce l'abbiamo, le troviamo in Sicilia, in Val d'Aosta o in Trentino o in Lombardia, oltre che all'estero. È un reato spia delle mafie, arriva a anche nei casi più estremi alla riduzione in schiavitù delle persone. Come vi ho detto prima, significa la trasformazione nella concezione dello sfruttatore di quella persona in un oggetto, da usare il più possibile in un'attività produttiva per la raccolta degli ortaggi, per esempio, della frutta, ma non solo, nell'attività produttiva, ma per esempio nel caso delle donne, anche per attività di vera e propria violenza sessuale, stupri, perché per l'appunto la trasformazione del soggetto in oggetto trasforma l'operatore o l'operatrice non solo in un arnese per la produzione, ma anche in un corpo che il padrone, l'uomo, può usare nei modi che ritiene al momento a lui più congeniali. Questo ci dice che noi parliamo di un fenomeno che viola quotidianamente e sistematicamente, come dicono le Nazioni Unite, i diritti fondamentali. Nella mia esperienza, io mi sono occupato molto, mi occupo molto di caporalato e sfruttamento nell'Agro Pontino, quindi a 60-80 km da Roma, con riferimento in particolare, ma non in via esclusiva, della comunità indiana. Poi mi sono allargato ovviamente a molte altre realtà, conosciuto anche italiani ed italiane vittime di questo sistema criminale. E ho lavorato e ho intervistato, sono stato accanto a persone che per esempio lavoravano 14 ore al giorno, tutti i giorni del mese, per anni, quindi da anche un giorno di riposo, per retribuzioni che nei casi più estremi arrivavano a 50 centesimi l'ora, con l'obbligo di chiamare padroni datori di lavoro, abbassare la testa, fare tre passi indietro, con l'obbligo di non denunciare infortuni di diversa natura, di lavorare in silenzio, di non avere la pausa per andare in bagno. Nel caso di alcune donne immigrate, per esempio, l'obbligo di non parlare all'interno di una specifica azienda nella loro lingua di origine, ma soltanto in italiano, nella lingua che conoscevano, che è una forma di violenza estrema. Significa che tu non puoi, per volontà di un padrone, esprimerti nella tua lingua, nella tua cultura di origine, aprendo un dialogo con chi viene da quella stessa cultura, anche solo per costruire una relazione. Non puoi farlo. O il divieto di andare dai medici, dai dottori, o il divieto di iscriversi a un sindacato. Quindi, vi ripeto, è la violazione dei diritti umani. Quante sono le persone, soltanto nel settore agricolo, che sono ridotte in schiavitù in questo paese? Circa 230.000. 230.000 persone, l'80% sono immigrati, il 20% sono italiani, di diversa età, di diverse origini, di diversa provenienza, sparpagliati su tutto il territorio nazionale. In forme ogni volta territorialmente diverse, ma comunque presenti in tutto il territorio nazionale. Tutto questo produce un profitto illecito, secondo le ricerche Eurispes, di circa 24,5 miliardi di euro. Che significa che questo sistema così organizzato, ben oliato, così violento, produce profitti illeciti che restano nelle tasche di questo sistema criminale, che ha come obiettivo quello di ergere i padroni a padroni in casa nostra e i lavoratori e le lavoratrici, spesso immigrati, ripeto, schiavi che devono soltanto obbedire e obbedendo a volte anche morire, perché poi in queste situazioni, come dire, il passo verso il decesso, la morte, è veramente molto facile. Ascoltarti e quindi anche apprendere il lessico, il vocabolario con il quale tu descrivi questo fenomeno, mi intanto persuade a capirne di più, ma anche mi fa comprendere quanto la scelta di Francesca e mia di estendere attraverso questo strumento del podcast anche interviste a persone che non si occupano specificatamente di abusi sessuali nell'infanzia, ma anche di temi affini, ci fa ecco ragionare su temi molto con cause assolutamente comuni, con processi che hanno implicazioni simili. Parlavi di un fenomeno sistemico che riguarda a tappeto tutto il paese, e quindi trovo che non sia casuale che familiarizziamo con lo stesso lessico. Come ci stavi descrivendo, il caporalato non colpisce solamente un tipo di popolazione, e sicuramente non colpisce solamente i lavoratori e le lavoratrici, ma anche le loro famiglie. Quando hai citato quel numero così allarmante di persone, possiamo immaginare che attorno a quegli individui ci siano poi una rete di soggetti che sono legati a quei numeri. Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, come impatta questo sistema di sfruttamento sulla vita anche dei minori, figli dei lavoratori nei campi? E se sappiamo qualcosa anche sulla loro situazione in termini di istruzione, di accesso alle cure, insomma, più in generale, che vita fanno i figli e le figlie delle persone che lavorano nei campi sfruttati? Intanto bisogna dire che questo tema è purtroppo marginale anche nell'ambito di quelle soggettività che dovrebbero invece occuparsi del tema. Cioè, anche lì dove si accende un faro, la luce di questo faro arriva sui figli minori delle vittime di sfruttamento sempre un po' in ritardo. Ci si concentra molto più su quella che è considerata la vittima tradizionale, quindi l'adulto, spesso uomo, prima ancora che donna, e quindi la concentrazione su di lui, poi è su di lei adulta, poi sui figli. Questa lettura scalare indica un grave provincialismo anche nel nostro modo di intendere e analizzare il fenomeno. Certo, bisogna premettere che è molto complicato, perché questo è il mio approccio, io non lo analizzo da una cosiddetta distanza di sicurezza, cioè guardando agli uomini, alle donne, ai minori dalla mia finestra. Io entro dentro il fenomeno, rompo l'oggettività del fenomeno e divento un soggetto tra i soggetti, quindi un uomo tra gli uomini, tra le donne e tra i ragazzi. Pratico molto l'osservazione partecipata, che significa entrare dentro il fenomeno da studiare, prescindendo da ogni forma di oggettivismo alla quale io credo poco. E nel caso specifico, per esempio, ho abitato un anno e mezzo con la comunità indiana del lavoro continuo, completamente immerso lì, da loro, in casa loro, che era però contemporaneamente anche casa nostra. Quindi insomma era una comune in questo senso, immerso in quella cultura, parlando più o meno la loro lingua, parlando con i loro silenzi, imparando ad interpretare anche i loro silenzi, che secondo me sono molto più ricchi di significato rispetto alle affermazioni, soprattutto quando si parlano lingue altre. C'è una prossemica che è di straordinaria ricchezza sociologica, antropologica, culturale. E poi appunto, risultato che ho lavorato in diverse aziende agricole, e poi ho seguito un trafficante di esseri umani e ne sono nate tante esperienze di ricerca, ma anche di mobilitazioni, di contrasto. E durante queste esperienze ho incontrato anche minori, inevitabilmente. Minori, ragazzi, ragazze, che vivevano situazioni ogni volta diverse, però va precisato, noi sappiamo da molto tempo che in questo paese, in alcune aree, perché su quelle aree si sono accese delle riflessioni da tempo, in altre aree meno, ma solo perché non sono state adeguatamente analizzate, il fenomeno dei minori è grave non solo in termini di sfruttamento lavorativo, perché spesso i minori, figli di famiglie i cui genitori sono già sfruttati, vanno a lavorare nelle campagne, alle medesime condizioni in termini di fatica dei genitori, che significa però paradossalmente in condizioni peggiori, perché se sei un minore di 8 anni, 10 anni, 12 anni e lavori 14 ore nella raccolta delle patate, delle carote, delle cipolle, è evidente che la fatica che fai, anche dal punto di vista psicologico, per leggere tutto quello è particolarmente grave. Il caso di Vittoria in Sicilia è il più drammatico, in quel caso le donne, soprattutto rumene, sono vittime anche di violenze di natura sessuale, restano ad abitare dentro luoghi ameni in prossimità o dentro le aziende agricole, i bambini che nascono, quando nascono, vengono nel corso del tempo portati nelle campagne e lì vanno a lavorare. Parliamo di una forma classica, tra virgolette, quella che noi leggiamo nei libri di storia di sfruttamento lavorativo, con, dal mio punto di vista, una responsabilità che non è soltanto dello stupratore padrone, ma è anche del sistema istituzionale locale, servizi sociali, procure, attività investigative, eccetera, eccetera. Perché un conto è non sapere, e già per questo per me c'è una responsabilità, e quindi non intervenire. Un altro conto è sapere, denunciare e poi restare nell'attività di non intervento. E noi sappiamo che tutto questo c'è, eppure continua ad esserci. Questo è il dramma dei drammi, ma lo stesso vale a Rosarno, lo stesso vale in Puglia. Nella mia esperienza, che di qualche anno fa, cioè di un paio d'anni fa, che poi ha portato a collaborare con il Save the Children e molte altre organizzazioni, io ho visto minori impiegati il venerdì, sabato e la domenica dentro aziende che fatturano milioni di euro, quindi non aziende povere, lavorare alle medesime condizioni dei genitori o comunque degli adulti, che in alcuni casi, dopo essere stati questi minori vittime di incidenti, cosa che è molto facile, proprio perché sei un minore, perché ha una struttura scheletrica, psicologica, fisica, no? Non matura, e quindi l'incidente, che può essere semplice strappo, come anche un infortunio grave, la rottura di un braccio, qualcosa di questo genere, viene, come dire, gestita dal caporale, dal padrone italiano, non attraverso il rivolso al pronto soccorso. Quindi l'accesso è un diritto fondamentale. Ma vengono somministrate le cosiddette sostanze dopanti, cioè viene dato al minore, per esempio, metanfetamina, o per esempio oppio, o per esempio antisfastici, allo scopo di evitare di sentire il dolore o per continuare al lavoro, o insieme alla minaccia di una possibile violenza fisica di ripercussioni di diversa natura, impedire la denuncia. Però in questo caso specifico, io che faccio il sociologo, ho rilevato una cosa che per me è estremamente interessante, cioè questo genere di brutalità. Quindi il 14enne, 15enne, 16enne, 12enne che va a lavorare il venerdì, sabato e la domenica, e quindi subisce questo genere di violenze, delle forme dello sfruttamento che vi ho raccontato, e però quello stesso minore o quella stessa minore dal lunedì al giovedì vanno a scuola. Quindi non parliamo della marginalità puglia, quella che il semplice cittadino non vede perché è tutto circoscritto nella marginalità più estrema. La persona che abita e vive dentro un'azienda in condizioni di grave sfruttamento non può uscire e lavora anche quando è minore. Parliamo di persone che sono regolarmente soggiornanti, che vanno a scuola, quindi, come dire, sono registrate nel nostro servizio scolastico, che da lunedì a giovedì sono compagni o compagne dei nostri figli, delle nostre dei figli dei nostri amici e che però il venerdì, sabato e domenica risultano assenti perché devono andare per la povertà della famiglia, quindi non per comprarsi, come dire, cellulare da 2.500 euro, ma perché la famiglia è già una famiglia sfruttata e quindi per sostenere la famiglia vanno a lavorare alle stesse condizioni dei genitori. E qui nasce l'osservazione che per me è più interessante, perché quel sistema scolastico, docenti, non si pongono mai la domanda perché quei tre ragazzi ogni venerdì e sabato non vengono a scuola. Perché la risposta alla mia domanda, secondo voi, perché non vengono a scuola è sempre quella per cui non hanno voglia di studiare? Quando invece mettere in discussione questi luoghi comuni e costruire una relazione più orizzontale con quei ragazzi poteva giungere a una comprensione di ciò che questi erano di fatto indotti, obbligati a fare, cioè a lavorare come schiavi, minorenni, non dall'altra parte del mondo, ma a 8 km da quella scuola, a 20 km da 80 km dal Parlamento italiano, a 30 km dal comando provinciale delle forze dell'ordine X, quindi sotto gli occhi di tutti. Questi ragazzi io li ho visti obbligati a chiamare padrone anche loro, i datori di lavoro, adulto italiano, pagati il 20-30% in meno rispetto all'adulto già sfruttato, obbligati anche loro a respirare i fumi dei fuochi che vengono accesi di rifiuti all'interno di quel territorio, anzi spesso sono loro che li devono obbligatoriamente accendere con conseguenze nefaste per la loro salute. C'è il caso di un ragazzo che per esempio ha subito un grave infortunio sul lavoro a causa del sollevamento di cassoni di frutta, quindi roba molto pesante, che ne ha determinato anche una sorta di malformazione, perché è di difficile superamento questo incidente, e l'unica cosa che ha potuto fare è tornare a casa senza poterlo denunciare a nessuno, neanche. Mi direi che aveva l'obbligo del silenzio perché altrimenti poteva accadere qualcosa ai genitori che lavoravano dentro quella stessa azienda dove lui si era infortunato attraverso anche lì violenze o spedizioni punitive nei riguardi dei genitori che lui ovviamente voleva evitare. E tutto questo in chiave maschile. Nel caso delle ragazze, tutto questo può tradursi in ricatti, violenze, stupri anche di carattere sessuale. Penso. E anche questo lo abbiamo rilevato e denunciato con un altro dossier pubblicato da un altro ente che si chiama WeWork. Mi stavo segnando perché andrò a vederlo sicuramente. Sono un amante dei dati che non abbiamo. Abbiamo pochissimi dati sulle violenze su minori e abbiamo pochi archivi e quelli che abbiamo sono fatti dalle associazioni, non sono fatti da un ente pubblico e questa cosa qua, un po' perché c'è il problema delle regioni che hanno tutte le piccole banche dati regionali e non c'è un vero e proprio ufficio che le raggruppa tutte e ci dà dei veri e propri dati. Se io oggi digito quanti minori hanno subito violenze, avrò a seconda del report delle risposte diverse, ma non perché questo deriva che chi le ha fatte in modo sbagliato, è che paradossalmente magari qualcuno prende una fonte che può essere il tribunale, qualcun altro e quindi tutte le denunce che sono arrivate in tribunale, qualcun altro invece guarda le assistenti sociali, quindi avremo dei numeri che non sono la realtà dei fatti e credo che non avere questi numeri spesso ci porti ancora in un silenzio perché quando tu prima hai detto 230.000, cioè io ho avuto un brivido perché non stiamo parlando di una o due persone, eppure questo argomento è totalmente silenziato, come se riguardasse due o tre persone. E l'altra cosa che mi sta stupendo da queste chiacchierate sono due. La prima, come è vicino questo tipo di sfruttamento allo sfruttamento anche della pedopornografia, no? Che c'è proprio una struttura. Noi pensiamo sempre che siano singoli individui, invece no, c'è una struttura che è basata soprattutto, parte da una base di potere e poi di soldi dopo, e anche mancanza di tutele. Questo anche purtroppo è quello che continua a far proliferare questo tipo di problemi. L'altra cosa che mi è venuta in mente, mia nonna lavorava nelle risaie. A 8 anni, ai tempi dopoguerra, è andata a lavorare nelle risaie. E quando raccontavi prima di questi bambini, mi facevi proprio venire in mente mia nonna. E subito dopo la fortuna di mia nonna è che comunque riusciva ad andare a scuola, quindi è riuscita ad avere una base di poter leggere delle documentazioni, poter capire come funzionavano le leggi e quindi ha potuto sperare in un futuro migliore, ha potuto darsi un futuro diverso da quello che gli era stato imposto. E mi sto domandando, questi minori che sono nei campi e da quello che c'era appena raccontato, già in tenera età vanno all'interno di un sistema che non gli permette di comprendere appieno tutto quello che c'è fuori. Quindi la mia domanda, che è un po' cambiata da quelle che avevamo detto di fare, ma perché la chiacchierata mi ha fatto venire in mente questo, è: la scuola che c'è per loro li può aiutare ad integrare e a comprendere che possono, per esempio, denunciare quello che gli sta capitando, o comunque non è pronta? Perché mi pare proprio di aver letto da alcuni tuoi scritti che non ci sono mediatori culturali, che ce ne sono pochi. Cioè, come funziona? È una scuola pronta e accogliente, visto che i numeri che parliamo siano alti e immagino che i minori siano tanti, oppure siamo un po' carenti e avremmo bisogno di qualcosa in più? Una risposta è complicata, diciamo che dipende molto dalla sensibilità e dal percorso spesso individuale dell'insegnante che si trova in quello specifico momento lì, dinanzi a quel fenomeno. Quindi ci sono degli insegnanti che vivono per propria volontà, per propria intuizione, per propria capacità dei percorsi, che però purtroppo restano estemporanei, perché nel senso non si può costruire un percorso didattico lungo e strutturato solo sulla volontà di una o due docenti o di un preside. Però quando questo si fa, si iniziano ad introdurre degli elementi. Io vado spesso nelle scuole a parlare anche di questo, e quindi inizio ad introdurre degli elementi che riguardano il tema dei diritti, il tema dell'emancipazione, il tema del contrasto alle violenze, eccetera, eccetera. Poi ci sono invece altre scuole in cui l'approccio è prettamente ministeriale, e quindi nonostante una presenza molto forte di minori, di immigrati, di lavoratori e lavoratrici dell'agricoltura, si applica semplicemente il programma ministeriale. Quindi il tema del lavoro non c'è, il tema dell'assistenza sociale non c'è, il tema della psicologia non c'è, il tema della psicologia sociale non c'è. Il tema anche dell'interpretazione del proprio quotidiano in una forma più evoluta rispetto a quella alla quale tu sei o abituato, indottrinato, non c'è. Quindi ciò che ne deriva è che o si arriva troppo tardi o non si arriva affatto. Quindi la scuola ha un ruolo fondamentale, a patto che si metta in discussione e abbia la capacità, come dire, di aprirsi a questi temi, e soprattutto a delle professionalità, perché quello che io rilevo è che questi temi vengono spesso trattati da persone troppo spesso non competenti, che a volte producono più danni che altro. E allora nelle aule, nei luoghi, il microfono deve essere dato, o il percorso deve essere aperto da persone che sanno ciò di cui stiamo parlando, sanno come intervenire, sanno come rispettare le persone che poi si riconoscono in queste storie, che hanno qualcosa da dire. Invece troppo spesso, come dire, è anche un limite del volontariato puro, cioè di chi ha un cuore straordinario ma non ha esperienza e formazione. Io dico sempre, io presento nelle attività della mia associazione, noi non coinvolgiamo i volontari, perché noi abbiamo a che fare con le persone che hanno una storia, una complessità, hanno dei traumi, hanno delle situazioni molto difficili. E lì non basta il cuore e la lacrima, servono delle professionalità alte, molto alte. E noi abbiamo il dovere di tutelare quelle persone e di aumentare quanto più possibile la possibilità di fargli arrivare a un risultato concreto, non semplicemente al racconto della loro storia e poi chi se ne frega. E questo lo puoi fare solo se, ripeto, hai dei professionisti. Quindi se la scuola si apre a dei professionisti e cambia l'approccio, può fare molto. Per ora Io vedo ancora una forte arretratezza. Scusa, mi viene naturale, ma non esistono in questo momento dei progetti ministeriali, in questi territori dove, comunque troviamo questi minori? Esiste qualcosa o non c'è proprio Esistono niente? tanti, tanti progetti regionali, nazionali ed europei contro lo sfruttamento che poi viene declinato però nelle forme tradizionali, cioè con una lettura prettamente sindacale, cosa pure fondamentale, ma non è sufficiente. Il tema di genere è secondario, il tema dei minori è secondario. E quando emerge non si hanno gli strumenti poi per intervenire a maniera adeguata, quindi c'è anche lì un grande, grande lavoro da fare. Poi dico anche che i bandi non sono sufficienti, nel senso che i bandi poi vengono scritti nel chiuso dei ministeri sulla base della lettura che il burocrate di turno ha del certo fenomeno. I fenomeni invece sono molto complessi, molto articolati, sono sempre multidisciplinari, sono in continua evoluzione. Quindi forse la cosa migliore sarebbe, come dire, intanto fare delle audizioni e ascoltare persone competenti per ridefinire quei bandi in maniera tale da lasciare anche uno spazio di libertà agli operatori e alle operatrici sul territorio per intervenire lì dove appare l'eccezione. Per eccezione intendo il caso che tu non immaginavi, no, di cogliere. Cioè se ti arriva un bambino, un ragazzo che ti dice che è gravemente sfruttato, che ha 12 anni e che ha subito anche delle violenze dentro un'azienda, non lo puoi trattare con la stessa metodologia, con la stessa applicazione di un adulto di 40 anni. Ti serve un vestito, un abito di altra natura e ti serve anche un altro tipo di equip e ti serve un altro tipo di risposta dei servizi sociali. E nel caso in cui non vadano bene i servizi sociali, che è un altro grande tema, ti serve anche un modo particolare di descrivere o comunicare quella situazione. A volte devi sapere che non la puoi comunicare. Quindi ti serve una professionalità molto alta. Quindi alcuni bandi ci sono, ma anche in questo caso io temo che non siano adeguati. Ascoltandoti, non posso fare a meno anche di soffermarmi sulla tua pacatezza nell'affrontare questo argomento che è anche molto doloroso. Sembra che, se potessi, cioè, guardando anche il livello del volume dei nostri microfoni, sembra che tutto sia lineare, eppure quanto è profondo, quanto tocca questo argomento. Quando tu parlavi anche della tua esperienza sul campo, immerso dal di dentro, posso immaginare che, ecco, quei toni fossero anche meno sfumati di come li vediamo adesso da questa prospettiva, almeno dietro i nostri microfoni. Però, un po' penso tutti e tre ci troviamo a casa mentre stiamo registrando questa puntata, il nostro frigorifero, pochi metri dalle spalle, o magari la dispensa da qualche altra parte, recherà all'interno dei prodotti che arrivano dai campi di cui sappiamo poco o forse nemmeno niente. Quindi, mentre mi soffermo su cosa succede adesso nel supermercato sotto casa o le scelte che faccio come consumatore, guardando però anche al futuro, cosa pensi che servirebbe per migliorare la situazione lavorativa di queste persone, in particolare per i minori e per le loro famiglie? E dunque anche che ruolo occupiamo noi come consumatori? Perché se è vero che ci sono così tante persone coinvolte direttamente nel fenomeno, però ci sono anche tanti attori, mi ci metto in mezzo in questo discorso, in cui posso avere delle responsabilità indirette, se non altro se non mi informo. Quindi secondo te, in che modo questo tema ci riguarda tutti e tutte da vicino e come possiamo fare la nostra parte per prendere un ruolo attivo nel contrasto del caporalato? Allora, intanto bisogna dire che hai pronunciato una parola per me fondamentale, l'informarsi. Primo tema è informarsi, significa però avere anche la capacità di cercare le giuste informazioni. Perché se ci vogliamo informare su questo e su altri temi, spogliando sul proprio cellulare le prime pagine dei quotidiani mainstream, non andiamo da nessuna parte. Quindi bisogna avere la capacità di trovare quelle informazioni adeguate e professionali che ti permettono di comprendere e quindi anche un po' di metterti in discussione. Il secondo punto è avere la capacità di mettersi in discussione, perché per l'appunto siamo tutti coinvolti in questo tema. Io non penso tanto nella dimensione del consumatore, o meglio, la dimensione del consumatore è secondaria nel senso che viene dopo. perché il rischio è quello poi di presupporre che il cambiamento di questo, che è un fenomeno organizzato, si è diventato anche criminale, eccetera, eccetera, attenga alle dimensioni dell'acquisto e del consumo, cioè praticamente del mercato. E io su questo ho delle perplessità. Credo che sia fondamentale il nostro ruolo di cittadini prima e poi di consumatori. Questo per includere nella nostra azione anche, per esempio, tutti coloro che non hanno i soldi per entrare nel supermercato e che però lo stesso possono fare molto, o tutti coloro che già acquistano nei mercati del commercio consolidato e che però possono fare lo stesso moltissimo. Cioè non basta comprare etico per dire io non sono coinvolto e dormire sonni tranquilli. E non basta criminalizzare il consumatore che non può che comprare al grande supermercato sotto casa perché ha una pensione di 200 euro per cambiare il sistema. Così come vi dico anche molto chiaramente che non basta l'approvazione della migliore delle norme possibili contro questo fenomeno, o quella della pedopornografia, per distruggerlo, per superarlo definitivamente. Un grande sociologo, che ho avuto l'onore di conoscere, la Ferrarotti, mi diceva che uno dei mali più grandi del nostro paese è il cosiddetto ottimismo normativo. Cioè l'idea per cui, visto, conosciuto e denunciato un fenomeno sociale, culturale, di qualunque tipo, così grave, sviluppata la norma migliore possibile, quel fenomeno conseguentemente possiamo immaginare e dire che sia stato superato. Non è così. Abbiamo un'importante legislazione antimafia, le mafie ci sono le stesse. Noi abbiamo la più importante legislazione anti-sfruttamento, e sfruttamento è lo stesso. Questo perché manca il protagonismo dei cittadini. Le norme e i cambiamenti camminano sulle gambe delle persone, prima ancora che dei magistrati, dei poliziotti. Il mio suggerimento, ed è quello che dico a tutti, è se vogliamo iniziare a cambiare un po' le cose, per esempio iniziamo ad incontrare queste persone, cioè le persone sfruttate che abitano già nella nostra bolla sociale, nel nostro quotidiano, che lavorano sotto i balconi di casa nostra, quindi incontriamole, proviamo ad aprire una relazione con loro, uno scambio, ossia proviamo ad interrogarci, proviamo a documentarci, cioè proviamo a cambiare il nostro posizionamento sociale e culturale. E poi con loro magari proviamo anche a cambiare questo modello produttivo, poi piano piano faremo le denunce, poi piano piano chiederemo anche gli arresti, perché sapete qual è il rischio? Che altrimenti noi andiamo a chiedere l'arresto di un padrone, questo viene pure arrestato, ma la domanda è: quel posto di quel padrone da chi viene preso? Da un altro padrone. Quindi è una battaglia culturale e politica prima ancora che economico, legata all'acquisto al consumo, che però resta fondamentale, anche quello. Però sapete, i principali acquirenti consumatori di prodotti agricoli a basso costo nei discount, quindi in questo senso teoricamente i principali responsabili del sostegno economico a questo mondo, sono gli stessi braccianti sfruttati, che non possono permettersi altro che quel tipo di acquisto. E quindi io vorrei evitare di dire a loro siete responsabili della vostra subordinazione, vorrei dire avviamo un percorso di emancipazione, cambiamo il linguaggio, facciamo azioni anche di contrasto sociale, capiamo meglio com'è il fenomeno, facciamo percorsi di formazione adeguati e anche di conflitti, ho organizzato i più importanti scioperi contro lo sfruttamento in Italia. Ho portato per esempio, il 18 aprile 2016 a Latina, 5.000 braccianti immigrati gravemente sfruttati in Piazza della Libertà, è stato il più grande sciopero. E quello ha cambiato in parte le cose, per esempio ha cambiato la presa di consapevolezza del bracciante sfruttato, che non si è sentito più vittima in attesa che noi cambiamo il modello di consumo, ma si è sentito protagonista diretto di un cambiamento. Che una parte di quei ragazzi e di quelle ragazze sono venute con le famiglie, con i bambini, cosa meravigliosa, a volte con gli abiti religiosi, un'altra cosa meravigliosa perché una riconquista e riaffermazione della propria identità, e a volte erano anche senza un permesso di soggiorno, eppure hanno conquistato lo spazio centrale della città, sotto i palazzi del potere, hanno detto noi ci siamo. Nessuno li ha arrestati perché eravamo in 5.000. e anzi le istituzioni le hanno ascoltate e hanno dato retta loro. Quindi credo che questo sia un percorso più facile, perché l'acquisto dei prodotti etici, io figuriamoci, sono amico di gran parte dei produttori etici, fanno un lavoro straordinario, però posso dire che sono dei piccoli imprenditori che fanno dei miracoli, gli cito uno, Pietra di Scarpa a Cerignola, che producono prodotti agricoli in un bene confiscato, in un territorio difficilissimo, recuperando uomini e donne e anche a volte minori che sono stati vittime di tratta internazionale, sfruttamento, grave sfruttamento, di periodi piuttosto lunghi anche di detenzione nelle carceri, no? Dove cioè, sono forme altre di sfruttamento e di violenza. Però la gran parte delle persone hanno difficoltà a cambiare il loro modello di consumo, non vanno a comprare quei prodotti. Noi rischiamo di attendere l'infinito e puntiamo tutte le carte sull'acquisto di altri prodotti, frutto di non sfruttamento. Va bene, io lo faccio, però parallelamente dobbiamo avere un ruolo come cittadini. Espressioni di una collettività di persone consapevoli e resistenti che sanno dire la propria negli spazi pubblici e in qualche modo anche costruire quello che per me è il caposaldo della democrazia, che è un democratico conflitto. Per conflitto intendo, se voi che siete nel palazzo pensate che questo fenomeno non c'è, noi siamo qui in maniera pacifica finché voi non vi rendete conto che invece c'è, dovete fare qualcosa. Se no è tutta una guerra di comunica di stampa e poi le Wow, cioè questa chiacchierata mi sta arricchendo tantissimo, grazie. Stavo facendo questa riflessione che da pochi anni, perlomeno nel panorama sociale italiano, stanno incominciando a parlare tante vittime di tante violenze diverse. Proprio quello che dicevi tu prima, siamo qui, dovete vederci, perché siamo qui. Un esempio è proprio anche il movimento che stiamo cercando di creare anche noi con Meti. Non per niente si chiama Non se ne parla il nostro podcast, perché l'intenzione è proprio quella di farci sentire, vogliamo essere visti perché esistiamo e siamo in tanti, molti di più di quelli che si pensa che siamo. E però subito dopo ragionavo sul fatto che tu sei partito con una parola che è violenza, e spesso chi subisce un abuso fa fatica a capire che sta subendo un abuso. E quindi quanto lavoro c'è per far emergere queste voci? Perché devi dare la sicurezza a loro, devi farli uscire da quello che stanno vivendo, parlo in primis per quello che è successo a me, e poi diventa che dopo un percorso strutturato che ti fa vedere quello che realmente è successo, perché per me per esempio era normale, c'erano altri bambini, probabilmente questo succede a tutti i bambini, ma nessuno mi ha spiegato che non era così. E come me, immagino anche questi minori, queste donne, questi uomini che sono nel campo e vedono solo quella realtà. Quindi è difficile capire che quella realtà sia sbagliata. Quindi ancora un altro grazie, so che sembra un po' retorica questa cosa per tutto quello che state facendo. A me dispiace perché siamo alla fine, vi farei ancora mille domande, però va bene così. Noi solitamente ci salutiamo portando nel podcast una cosa che facciamo all'interno dei gruppi di mutuo autoaiuto. Noi, finito diciamo il gruppo, perché tante volte parliamo di cose anche pesantissime, ci doniamo una parola l'un l'altro, ci diamo una parola che questo incontro ha sviluppato all'interno di noi. Quindi ti chiedo se ti va di regalarci una parola, poi anch'io dirò la mia e anche Gabriele. Quella che mi viene più prossima anche per il lavoro che stiamo facendo è libertà, che è una parola molto impegnativa, molto complessa, abusata anche questa, perché c'è un abuso anche delle parole che esprime anche lì una violenza di un certo tipo. E la libertà è una cosa che io ho visto conquistata da chi, uomo, donna, minore, eccetera, era stato ridotto in schiavitù. E ho visto queste persone rifiorire appunto dentro questo giardino chiamato libertà e che ho visto essere il più grande antidoto ad ogni forma di violenza, di prepotenza, libertà intesa anche come emancipazione, come libertà di stare insieme, di fidarsi e di affidarsi alle persone giuste in una logica di reciprocità. E E quindi libertà secondo me è un termine, è un concetto ed è una parola feconda. Grazie, grazie mille. Gabri, vuoi darci la tua? Sì, beh, allora, mi sono sentito molto ravvicinato dalle parole che tu hai usato, Marco, e in modo particolare anche per certi versi il tempo che ci è voluto per ragionare su queste cose. Io dico la parola prossimo, prossimità, perché intanto mi hai fatto comprendere meglio che relazione ho con questo argomento, non soltanto come consumatore, che era la prospettiva alla quale ero già un po' più familiare, ma quella di cittadino. E quindi anche in questo senso la prossimità, non soltanto perché mi è vicino, ma perché dall'altra parte c'è un senso di qualcuno che mi è prossimo. Tra l'altro, facendo un po' i conti, anche come Francesca raccontava della sua storia personale e familiare, effettivamente io, provenendo dal Mezzogiorno, mi accorgo di quanto ho assistito a storie di questo genere, delle quali però veniva dato per scontato che fosse una norma, una condizione alla quale non era necessario nemmeno troppo argomentare per sfuggirne. Oggi abbiamo più consapevolezze e queste devono essere ancora più diffuse. Il fatto che passino attraverso anche questo microfono e questi microfoni mi rende molto orgoglioso, quindi io mi solleverò con questa parola, prossimità. Te, Franci? Ma a me continua a venirmi in mente, più che una parola, un gioco che facevo da piccola. Quando scrivevi, mi pare col limone, ricordo se scrivevi col bicarbonato, poi schiacciavi il limone e si vedeva quello che avevi scritto, no? Mi è venuto in mente perché oltre a essere emarginati, siamo invisibilizzati, uso il plurale, e mi piacerebbe che ci fosse quel gioco, no? Metto sopra il limone e finalmente qualcuno ci vede. Per cui essere visti. In ogni caso, lasciare tracce. Questo è sicuramente quello che emerge oggi. Marco, noi ti ringraziamo tantissimo per averci dedicato questo tempo. E a voi. Quindi, se non altro, ritorneremo a parlarne e lo facciamo anche attraverso questi microfoni. Grazie mille, Franci, e a tutte le persone che ci hanno ascoltato, e noi ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Non se ne parla è un podcast dell'Associazione Meti ed è prodotto da Officine B12 col supporto del Centro Medico Stendhal di Milano. Tutti gli episodi sono disponibili su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Seguici sulla tua app preferita e riceverai la notifica dell'uscita di ogni nuova puntata. E se il podcast ti è piaciuto, faccelo sapere e spargi la voce. Fa che se ne parli. A presto!